Signori, buongiorno. La lezione del 13 di gennaio, del venerdì 13 gennaio, purtroppo ha avuto nuovamente dei problemi tecnici. Come ho accennato a lezione, i problemi tecnici io pensavo fossero dovuti ad una saturazione della memoria del mio cellulare. Viceversa, mi sono reso conto che il problema era sul software utilizzato. Di conseguenza ho deciso di cambiare software e per correttezza nei vostri confronti, quindi nei confronti dei miei studenti, ho deciso, una volta arrivato a casa, di registrare la lezione. La lezione sarà quindi priva dei rumori di sottofondo perché la sto registrando a casa mia. Ma spero di fare cosa gradita nel poter mettere a disposizione di tutti le informazioni che sono state dette il 13, quindi venerdì sera. Dalle prossime volte auspico che il problema non si presenti più nuovamente, perché appunto, avendo cambiato il software di registrazione, non dovrebbero esserci più problemi di sorta. Venerdì 13 abbiamo parlato nuovamente di Word, quindi ci eravamo lasciati alla fine dell'anno 2011, iniziando a raccontare che cos'è Word. Un breve briefing probabilmente può aiutare a spiegare meglio la situazione nella quale ci eravamo lasciati. Word è un programma di videoscrittura, quindi un programma che serve per creare e generare dei testi. Dei testi, con la parola testo si intende dalla semplice lettera che io posso scrivere ad un libro, una relazione, una tesi, quindi tutto ciò che ha necessità di tutti coloro che hanno necessità di scrivere dei testi più o meno lunghi possono sicuramente trovare un ottimo alleato in Word. In Word si possono inserire anche delle immagini, si possono inserire delle tabelle, si possono copiare ed incollare dei testi da e a una mail. Per cui è uno strumento sicuramente nell'ambito della scrittura, della composizione dei testi, molto molto flessibile. Alla fine del 2011 ci eravamo lasciati con alcuni consigli inerenti Word ed in particolare la necessità da parte dell'utente, soprattutto per coloro che non hanno molta familiarità con la tastiera, di scrivere dei testi. Scrivere dei testi il più possibile perché è necessario prendere confidenza con lo strumento principale di inserimento dati all'interno del computer, per poter iniziare a pensare a qualcosa di diverso che non sia la difficoltà nell'inserire lettere. In altre parole, quello che voglio dire è che consiglio a tutti quanti di inserire testi, per esempio appunto in Word, fino a poter digitare con un dito per mano. E il tempo che trascorre tra una battitura e l'altra, quindi scusate, tra la pressione di un pulsante e la successiva, non dovrebbe mai superare 1/2 secondi. È chiaro che nel momento in cui l'utente ci mette 5-6 secondi, se non di più, tra una battitura e l'altra, il problema principale non sarà l'utilizzo del mezzo informatico, ma sarà la battitura stessa. Benissimo, andiamo quindi ad aprire Microsoft Word. Word di solito lo aprite o da un'icona che chi vi ha fatto l'installazione vi ha messo sul desktop, oppure andando nel menu Start, Programmi, Microsoft Office e da lì dovreste trovare l'icona Microsoft Word. In questo modo, peraltro, troverete anche la dicitura 2000, 2003 anziché 2007, che non è nient'altro che la versione del programma. Come avevamo già detto alla fine dell'anno 2011, Le versioni 2000-2003 si differenziano molto a livello grafico dalla 2007-2010. Quindi in sequenza le versioni di Word sono 2000, 2003, 2007, 2010 e le ultime due appunto sono molto differenti graficamente nei menu dalle prime due. Non cambia però assolutamente nulla dal punto di vista della funzionalità. Sì, la 2007 e la 2010 hanno qualche funzionalità in più, ma sostanzialmente non si differenziano molto dalle versioni precedenti. Ormai le funzionalità, le opzioni che questi programmi mettono a disposizione degli utenti difficilmente cambierà o ne verranno aggiunte di nuove nei prossimi anni. Ormai la guerra dei software in questo campo è sicuramente più orientato all'aspetto della usabilità, quindi alla facilità d'uso da parte dell'utente che non nelle opzioni e nelle feature che vengono aggiunte. Quello che abbiamo visto venerdì scorso, quindi venerdì 13 gennaio, è stato la cancellazione in primis del testo. Forse questo l'avevamo visto già l'anno precedente, comunque lo ripetiamo un attimo. Allora, se io scrivo una parola, come ad esempio cavallo sul mio programma, posizionando il cursore, tra la A e la prima L e schiacciando il pulsante canc 3 volte, una, due, tre, il mio cavallo diventerà la parola cava. Questo perché? Perché il pulsante canc, cancella ciò che sta alla destra del cursore stesso. Quindi il primo tasto per cancellare è senza dubbio il pulsante canc. Il pulsante canc si trova solitamente in alto a destra nella tastiera di tutti i computer e lo ripeto. Annulla, cancella le lettere che stanno alla destra del cursore stesso. Quindi il mio cavallo, se io ho posizionato il cursore tra la A e la prima L, se schiaccio 3 volte il pulsante canc, andrà a trasformare il mio cavallo in una cava. Ripristino quindi LLO e faccio ritornare la parola cava in cavallo. Il mio cursore a questo punto lampeggerà a destra della O finale della parola cavallo. A questo punto quindi potrei schiacciare 3 volte il backspace. Il backspace è il pulsante che si trova sopra il pulsante invio. Il pulsante invio, lo ricordo, è quello che se schiacciato serve per andare a capo. Il backspace è contraddistinto da un'icona con una frecciolina verso sinistra, che non è da confondere con la freccia sinistra delle 4 pulsanti direzionali. Lo trovate appunto sopra il pulsante invio. Ora, se io ho il mio cursore a destra della O di cavallo e schiaccio 3 volte il backspace, nuovamente la parola cavallo si trasforma nella parola cava. Questo perché? Perché il backspace, che sostanzialmente è il fratello del pulsante canc, serve per cancellare anch'esso e si trova sostanzialmente va a cancellare le lettere che stanno alla sinistra del cursore. Quindi per cancellare ci sono questi due pulsanti, canc e backspace. Canc cancella quello che c'è alla destra del cursore. Backspace cancella ciò che si trova alla sinistra del cursore. E questo era il primo argomento di cui abbiamo trattato venerdì. Il secondo argomento è l'annulla e ripristina. L'annulla e ripristina sono senza dubbio, in particolar modo l'annulla, due operazioni estremamente utili, estremamente importanti per quanto riguarda Word, ma non solo. Per quanto riguarda tutti i software della suite Office ed ancora tutti i software in generale. Una delle caratteristiche sicuramente che ha fatto la fortuna dell'informatica nel mondo è la presenza della possibilità di annullare le ultime operazioni. A differenza di quello che può capitare in una macchina da scrivere, dove io una volta che ho scritto per tornare indietro devo bianchettare, devo inventarmi dei metodi per appunto annullare ciò che ho fatto, con il pulsante, con l'opzione annulla all'interno di Word, e lo ripeto in tutti i software in generale, questo problema appunto non si pone. Annulla è un'operazione che serve per tornare indietro dell'ultima operazione, che attenzione, non deve essere necessariamente un errore compiuto, ma semplicemente un'operazione che io ho effettuato e che voglio annullare, appunto. Ripristina serve per ripristinare un'azione che ho annullato. Quando parlo di azione, utilizzo un termine generico a ragion veduta perché intendo con azione la cancellazione di un testo, che magari può essere avvenuta in maniera erronea. Intendo l'inserimento di un'immagine. Intendo la formattazione di un carattere sbagliato. Fra poco vedremo che cosa vuol dire formattare. Quindi, qualsiasi operazione io la posso annullare e ritornare a prima, alla situazione precedente. Vediamo subito questo annullamento. Allora, nelle versioni di Word dalla 2007 alla 2010, sulla sinistra della barra del titolo trovo due frecce, una in senso orario ed una in senso antiorario. La freccia in senso antiorario è la freccia dell'annulla, la freccia in senso orario è la freccia della ripristina. D'altro canto, se voi ci passate il mouse sopra, vi apparirà appunto il piccolo pop-up, la piccola finestrella che vi informa che cosa fa quel pulsante. E appunto noterete annulla e ripristina. Nelle versioni di Office e quindi di Word 2000 e 2003 troverete questi pulsanti sulla barra degli strumenti o in alternativa nel menu Modifica alla voce Annulla. Allora, se io vado a scrivere nuovamente cavallo, seleziono la parola cavallo, vi ricordate che alla fine del 2011 abbiamo visto i metodi di spostamento, i metodi di selezione, vi invito ad andare a rivedere quei metodi perché sono alla base di tutti i programmi che andremo a vedere e che abbiamo visto. Quindi se io seleziono la parola cavallo e per errore schiaccio il pulsante cance, la parola cavallo viene ad annullarsi, quindi sparisce. Chiaro che se questo io lo facessi su una frase, se non addirittura su tutto il testo che ho scritto magari in mesi di lavoro, questa sarebbe un'azione decisamente deleteria. E quindi avrei la necessità di tornare indietro. Ora, se voi arrivate a questo punto, se state seguendo se state facendo le stesse cose che io sto dicendo a voce, noterete appunto che la parola cavallo è sparita. Ora, schiacciando il pulsante annulla, la parola cavallo riappare, quindi sostanzialmente io ho annullato la cancellazione della parola stessa. Schiacciando invece il pulsante ripristino, la parola cavallo scompare nuovamente, quindi sostanzialmente va a ripristinare l'annullamento della stessa. Sia che voi lo facciate con una versione di Office 2000, 2003, anziché 2007 o 2010, i pulsanti sono i medesimi e ciò che si ottiene è la stessa identica cosa. Annulla e ripristina, ecco, una cosa importante che ho detto sempre venerdì sera è che l'annulla e ripristina Io ne posso fare diversi, quindi se io faccio 2, 3, 4 azioni, che potrebbero essere ad esempio l'inserimento di un testo, l'inserimento di un'immagine, la cancellazione di un testo, l'inserimento di qualcos'altro, se io schiaccio 2, 3, 4 volte annulla, il computer andrà ad annullare le 2, 3, 4 operazioni antecedenti. Solitamente le persone mi chiedono quante operazioni possono essere annullate e tipicamente la risposta è una decina. Grosso modo il computer si ricorda le ultime 10, 15 opzioni. Il numero delle operazioni annullabili è impostabile all'interno dei menu, non mi sembra il caso di andare a vedere in quale dei menu. Comunque, insomma, solitamente se uno si accorge di uno sbaglio, se ne accorge praticamente subito, se non dopo 2 o 3 operazioni al massimo. Attenzione però, perché l'annulla e il ripristino ovviamente non possono essere utilizzati se non praticamente immediatamente, cioè io non posso pretendere di spegnere il computer di spegnere il computer, quindi aver salvato il file, riaccenderlo magari dopo una giornata o due e poter annullare le ultime operazioni, perché l'annulla è una un'operazione che si avvale della memoria RAM, per cui se io ho spento il computer, quindi ho azzerato la memoria RAM, non posso più fare l'annulla. Analogamente l'annulla ed il ripristina non valgono una volta salvati il file. Questo perché? Perché il computer, o comunque Word, è stato programmato in modo che nel momento in cui l'utente schiaccia il pulsante di salvataggio, implicitamente dice al programma che accetta tutte le modifiche fatte fino a quel momento. Per cui sostanzialmente le operazioni effettuate non possono essere più annullate con l'operazione di annulla. Quindi l'operazione di annulla è sostanzialmente un alleato prezioso nell'utilizzo di un computer, perché serve appunto per tornare indietro ad eventuali errori effettuati, ma attenzione, perché non vale più una volta salvato il file anziché una volta spento il computer o anche una volta chiuso il programma Word. Cioè io non posso pensare di chiudere il programma Word, riavviarlo anche subito dopo e schiacciare il pulsante annulla, perché tutto quello che avevo fatto nella sessione precedente viene automaticamente cancellato, non è più annullabile, quantomeno. Ora, riscriviamo la parola cavallo e poi scriviamo di seguito cavallo che corre nei prati, giusto per avere una frase con un senso, con un minimo di senso compiuto. E ciò che abbiamo visto venerdì 13, quindi il grosso della lezione di venerdì 13, è stato la sezione carattere che si trova nella barra degli strumenti denominata Home. Vi ricordate alla fine del 2011 che avevamo visto i menu nel Office 2007? C'è il menu Home, il menu Inserisci, il menu Layout di pagina, il menu Riferimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Se io clicco su questi menu, i pulsanti della barra degli strumenti cambiano contestualmente. Allora, se io schiaccio nel menu Home, avrò varie sezioni nella barra degli strumenti. La sezione Appunti, la sezione Carattere, la sezione Paragrafo, la sezione Stili. Ecco, venerdì ci siamo concentrati sulla sezione Carattere. La sezione Carattere serve per formattare il carattere, appunto. Che cosa significa il termine formattare? In informatica il termine formattare ha assunto negli anni diverse connotazioni. In passato il termine formattazione era associato alla cancellazione definitiva di tutto il contenuto di una memoria di massa. O ancora, quando la memoria di massa, quindi i dischetti, venivano acquistati, si diceva vergini, si formattava un dischetto e sostanzialmente l'operazione di formattazione serviva per preparare il dischetto ad essere utilizzato. Quindi sostanzialmente l'operazione di formattazione aveva una connotazione più di memoria, quindi veniva utilizzata sostanzialmente o per preparare una memoria di massa ad essere utilizzata o per cancellarne completamente il suo contenuto. Oggi il termine formattazione, benché ancora abbia senso in questa accezione, viene più utilizzato per quanto riguarda il cambiamento dell'aspetto. Quindi formattare un carattere ad oggi significa cambiarne l'aspetto, modificarne il colore, modificarne lo sfondo, modificarne la grandezza o la tipologia stessa. Allora, il box che nella versione 2007-2010 noi troviamo nel menu Home e denominato come appunto carattere, mi permette di fare tutte queste operazioni sul carattere. Nell'Office 2000-2003 queste opzioni si trovano sempre nella barra degli strumenti, quindi i pulsanti che noi vedremo si trovano nella barra degli strumenti. Se non trovate qualcuna di queste opzioni, che io racconterò durante la lezione, questa lezione diciamo un pochino anomala, se voi non le trovate, queste opzioni possono essere ripescate nelle versioni antecedenti di Office nel menu formato alla voce carattere. Allora, quali sono le opzioni che noi troviamo in questo menu? Allora, beh, sicuramente a lezione è un pochino più facile parlare perché c'è l'ausilio del video. Cercherò di descriverlo nella maniera un pochino più, nella maniera meno difficile, via. Allora, ci sono due righe nel box carattere. Nella prima riga troviamo una scritta con quindi una casellina combinata o meno a tendina con una scritta. Tipicamente questa scritta sarà o Calibri o Times New Roman. A fianco a questo menu a tendina ci sarà un altro menu a tendina con un numero questa volta, tipicamente un 10, un 11 o un 12. A fianco a questo menu a tendina ci saranno due A, una A maiuscola, una A un pochino più grande con una freccia verso l'alto e una A un pochino più piccola con una freccia verso il basso. Sotto a questo gruppo ci sarà una serie di pulsanti i cui i primi tre sono una G, una C ed una S. Sono seguiti da un pulsante dove c'è un ABC con una barra sopra, un X, una X con un 2 in basso, una X con un 2 in alto, una A maiuscola con una A minuscolo e gli ultimi due pulsanti sono costituiti da un AB con un pennarello e l'ultimo pulsante da una A con un colore sottostante. Allora, noi avevamo una frase che era appunto cavallo che corre nei prati. Andiamo a evidenziare che corre nei prati. Quindi lasciando stare nella selezione la parola cavallo. Andiamo a selezionare il menu a tendina dove c'è scritto Calibri o Times New Roman. Cliccando sulla freccina che sta subito alla destra della parola, della scritta, apparirà un menu appunto dove potrete vedere una serie di scritte. Queste scritte sono sostanzialmente i caratteri installati sul vostro computer. A seconda dell'installazione, a seconda del programma, a seconda dell'anzianità del programma stesso, le scritte potranno essere molteplici oppure magari soltanto 4 o 5. Vedete che la piccola anteprima vi mostra proprio la differenza tra un carattere e l'altro. Ora, se voi provate, a lezione mi era stato chiesto quali sono i tipi di carattere più utilizzati. Ebbene, senza dubbio, il tipo di carattere più utilizzato in assoluto è il Times New Roman, scritto Times spazio NW spazio Roman. Il Times New Roman è senza dubbio il carattere più utilizzato, il carattere che viene utilizzato da tutti praticamente i libri, da tutti i quotidiani, perché sostanzialmente gode di una certa leggibilità, cioè è facile a leggere, è facile da leggere. Un altro carattere molto utilizzato è l'Arial. L'Arial potete trovarlo tipicamente sotto forma di titolo. E un altro carattere estremamente utilizzato, forse oggi un pochino meno, ma una volta senza dubbio molto di più, è il Courier. Il Courier. Ed è il classico carattere da macchina da scrivere, che simula la macchina da scrivere. In realtà in alcuni computer probabilmente di caratteri ce ne saranno tanti. Ora provate a cliccare su qualcuno di questi. Io ad esempio sul mio computer sto andando a cliccare il Baskerville Old Face e vedete come la scritta cambi. Provate a selezionarne un altro. Io ad esempio sto andando a selezionare il Bodoni MT Black e vedete come questo, come il carattere cambi. Provate a selezionare un altro, io ad esempio selezionerò l'Algerian e vedete come il carattere cambia nuovamente. Notate soprattutto la differenza tra la parola cavallo e il resto della frase che corre nei prati. Notate come i due caratteri siano decisamente molto molto diversi. Ora, l'operazione successiva è quella di andare a selezionare un numero differente. Abbiamo visto che la casella combinata alla destra del tipo di carattere era appunto il numero. Se io vado a schiacciare su quella casella combinata, avrò una serie di numeri che vanno tipicamente dall'8 al 72 o all'84. Se io provo a scegliere il numero, ad esempio, 26, e quindi cliccate sul numero 26, noterete che la scritta selezionata diventa molto più grossa della parola cavallo. Questo che cosa significa? Significa che io ho cambiato la dimensione del carattere. Attenzione, perché la dimensione del carattere sarà così anche nel momento in cui io vado a stampare il carattere stesso. Quindi, a differenza di uno zoom, che poi vedremo nelle prossime settimane, che vi permette di andare a visualizzare semplicemente i caratteri più grandi o più piccoli, io qua non solo visualizzo i caratteri più grandi o più piccoli, ma anche in fase di stampa del documento i caratteri effettivamente appariranno più grandi o più piccoli. Quindi la dimensione di un carattere è legata anche alle dimensioni sul foglio e non semplicemente alle dimensioni che io visualizzo sullo schermo. Le due A maiuscole alla destra del numero, vedete che hanno una frecciolina, la prima A, quella più grande, che punta verso l'alto, la seconda A, quella più piccola, che punta verso il basso. Ora, se voi fate la prova e quindi provate a cliccare su ciascuna delle due A, noterete semplicemente che la dimensione del carattere della frase selezionata aumenteranno o diminuiranno. Quindi se io schiaccio la A maiuscola, ovviamente ricordatevi che deve essere sempre selezionato la frase, quindi che corre nei prati. Se io schiaccio la A maiuscola con la freccia verso l'alto, questa dimensione aumenta, quindi vedrete i caratteri che aumentano di volta in volta. Se io schiaccio la A minuscola con la freccia verso il basso, noterete che la dimensione della frase selezionata diminuisce. Quindi sostanzialmente sono due metodi molto veloci per testare diverse dimensioni dei caratteri della frase selezionata. Prima di passare ai pulsanti che ci sono nella riga sottostante, volevo fare una premessa che peraltro ho fatto anche durante la lezione. Ci sono essenzialmente due scuole di pensiero per quanto riguarda la formattazione dei caratteri. La prima scuola di pensiero preferisce prima impostare la formattazione del carattere, quindi il tipo di carattere, la dimensione, il colore, eccetera, eccetera, e poi scrivere. E c'è invece chi preferisce prima scrivere, dopodiché selezionare il testo e andare a impostare il formato. Questo secondo metodo, che può sembrare un pochino più laborioso forse, perché uno dice io prima devo scrivere, poi devo selezionare, poi cambio il formato, è molto più facile prima impostare il formato e successivamente scrivere. Io personalmente però appartengo proprio alla seconda scuola di pensiero, cioè io preferisco prima scrivere e poi andare a formattare il carattere. Questo perché? Perché in questa maniera mi rendo conto di come il carattere verrà effettivamente impaginato. Cioè, il problema fondamentale non è solo il formato che io voglio dare al carattere, ma anche come questo carattere verrà a presentarsi nell'impaginazione generale dopo che gli ho dato un determinato formato. In conseguenza, il consiglio spassionato che io do a tutti gli utilizzatori e comunque a tutti coloro che ascolteranno questo file audio, è quello di scrivere prima e poi applicare il formato. Anche perché tendenzialmente chi applica prima il formato e poi scrive, ho notato che tendenzialmente sono le persone che erano abituate a utilizzare la macchina da scrivere. Quindi sono le persone che sono abituate a effettuare delle modifiche prima di scrivere. Ma perché? Perché nella macchina da scrivere, l'abbiamo detto all'inizio di questo podcast, non è possibile andare a fare delle modifiche. Le modifiche devono essere fatte poi manualmente. Nel computer invece questa difficoltà non c'è, per cui conviene prima scrivere e poi effettuare i cambiamenti di formato. Ora passiamo alla seconda riga della sezione carattere. I primi tre pulsanti sulla sinistra che incontriamo sono la G, la C e la S. Ora, dando per scontato che voi abbiate ancora selezionato la parte di frase che corre nei prati, se voi provate a schiacciare la G, la C e la S, sostanzialmente otterrete il grassetto, il corsivo ed il sottolineato. Questi tre pulsanti servono sia tanto per mettere l'opzione, sia tanto per togliere l'opzione. Quindi se io schiaccio la G otterrò un carattere grassetto. Se io la rischiaccio, l'opzione grassetto sparisce. La S, è particolare perché a fianco della S vedete una piccola frecciolina che va verso il basso. Ora, se voi ci cliccate sopra la frecciolina, noterete che appare un menu con delle righe. Che cosa sono quelle righe? Sono le righe di sottolineatura. Se voi schiacciate semplicemente la S, ciò che ottenete è una sottolineatura, con una riga semplice e singola. Se Se voi però volete altre volte delle sottolineature un pochino differenti, potete andare a schiacciare su questa frecciolina a fianco alla S, sulla destra della S, e da lì selezionare delle sottolineature diverse dalla semplice riga continua. Il pulsante a fianco alla S e il pulsante identificato da un ABC con una riga tracciata sopra. Ora, sempre nel caso di aver evidenziato che corre nei prati, io clicco sulla ABC con la riga sopra e noterete che appunto la mia scritta avrà una riga sopra, come se fosse una correzione, come se in un foglio scritto io con una penna tracciassi una riga sopra ad una o più parole. A cosa serve questa opzione? Questa opzione serve sostanzialmente nei documenti che vengono editati, quindi modificati a più mani. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io, Vittorio Zuccalà, vado a scrivere cavallo che corre nei prati, salvo il documento e lo passo ad un collega. Il collega, ad esempio, vuole modificare questa frase, ma vuole tener traccia di ciò che io avevo scritto. Non va semplicemente a cancellare le parole che corre nei prati, ma evidenzia queste parole, traccia una riga sopra con questo pulsante che abbiamo appena visto e poi scrive la frase che secondo lui è più corretta. In questo modo si ottiene l'indubbio vantaggio di tenere traccia di ciò che era stato scritto dagli utenti precedenti. Quindi il revisore successivo, o se poi il file ritorna a me, io, sebbene avessi scritto io stesso che corre nei prati, ma voi immaginatevi chiaramente dei testi molto lunghi, magari di diverse decine di pagine, magari uno non si ricorda perfettamente cosa era scritto in un punto anziché nell'altro. Allora, in quel caso lì, io ho la possibilità di andare a vedere che cosa sarebbe per l'altro utente cancellabile e quindi posso decidere se effettivamente cancellarlo o meno. Clicchiamo a questo punto sulla destra della frase. Schiacciamo invio per andare a capo, eventualmente ripristiniamo il Times New Roman di grandezza 11 e scriviamo H2O. H2O, spazio e poi 10. Benissimo, a questo punto selezioniamo soltanto il 2 e schiacciamo sulla barra degli strumenti la X con un 2 in basso. Ora, se avete seguito esattamente quello che ho fatto, quindi io ho scritto H2O, ho selezionato il 2 e ho schiacciato la X con un 2 basso, avrete notato che il 2 che sta tra la H e la O, è andato in posizione di pedice. Cosa vuol dire posizione di pedice? Vuol dire che si è abbassato di posizione, quindi è andato un pochino di dimensione innanzitutto, è diventato un po' più piccolo rispetto all'H e rispetto alla O, ed è andato un pochino più in basso rispetto alle due lettere. Quindi posizionare un numero, una lettera o delle scritte in posizione di pedice vuol dire appunto questo, ciò che vedete sul vostro computer. Avete capito che lo stesso effetto lo posso ottenere col pulsante a fianco. Quindi a fianco ad H2O vi ho fatto scrivere 10, selezionate lo 0, schiacciate la X con il 2 in alto, noterete che lo 0 diventa un po' più piccolo rispetto all'1, chiedo scusa, e viene spostato leggermente più in alto. Questa si chiama posizione di apice, cioè apice è tutto ciò che sta un pochino più in alto rispetto alla scritta, e e di dimensioni tipicamente leggermente più piccole. Ora, selezioniamo la scritta, la frase che avevamo sopra, quindi cavallo che corre nei prati. Quindi abbiamo esaurito il discorso apice pedice, riselezioniamo cavallo che corre nei prati, quindi questa volta tutta la scritta, e questa volta andiamo a cliccare sulla frecciolina che sta alla destra nel pulsante A maiuscolo A minuscolo. Cliccando su quella frecciolina mi appare un piccolo menu dove le voci che presentano si presentano solo normale, tutto maiuscole, tutto minuscole, tutte le iniziali maiuscole, oppure inverti maiuscole con minuscole. Ora, queste frasi, queste parole non hanno bisogno di particolari introduzioni, fanno esattamente ciò che viene descritto dalle frasi stesse. Sono delle opzioni abbastanza interessanti, nel senso che ci sono alcuni casi nei quali magari io voglio invertire, magari un utente ha scritto tutto in maiuscolo, io trovo particolarmente antipatico quando si scrive tutto in maiuscolo, voglio prendere un'intera frase o un intero gruppo di parole, trasformarle in minuscolo, invece di andare a riscrivere completamente il testo, lo seleziono e tramite questa opzione gli posso dire trasformalo tutto in minuscolo. O viceversa, se trovo qualcosa che è tutto minuscolo e lo voglio trasformare in maiuscolo, seleziono la frase, la parola o l'intero documento e lo posso trasformare tutto in maiuscolo. Provate a casa, provate tutte le opzioni presentate su questo piccolo menu. Ed infine gli ultimi due pulsanti. Gli ultimi due pulsanti, io do per scontato ancora una volta che abbiate selezionato la frase cavallo che corre nei prati. Gli ultimi due pulsanti sono l'evidenziatura e il colore del carattere. Ora, se voi provate a schiacciare sulla frecciolina alla destra sia del pulsante AB con il pennarello, sia alla destra della A con un colore sotto, noterete che appare una tavolozza di colori. Provate a selezionare un colore per il carattere. Io ad esempio ho selezionato il rosso granata e provate a selezionare un'evidenziatura, che può essere ad esempio il giallo. Noterete che a questo punto la scritta cavallo che corre nei prati sarà di colore rosso granata e con uno sfondo giallo. Ciò che è importante dire a questo punto è che cioè questi due pulsanti, così come il grassetto corsivo sottolineato, servono sia per applicare il colore del carattere o il colore dello sfondo, ma anche per toglierlo. Quindi se io riseleziono tutta la frase e vado a cliccare sulla destra, sulla frecciolina a destra del colore carattere, noterete che la prima scritta è la parola automatico. Se io clicco su automatico, il carattere riprende la colorazione nera. Analogamente, se schiaccio sulla frecciolina a destra del pulsante di evidenziatura, oltre alla tavolozza dei colori, mi apparirà in basso la scritta nessun colore. Se io clicco su nessun colore, noterete che la evidenziatura sparisce. Questo quindi cosa vuol dire? Che i pulsanti colore, sia per quanto riguarda l'evidenziatura, sia per quanto riguarda il colore del carattere, servono tanto per applicare un colore al carattere e allo sfondo, quanto per toglierli. Analogamente a ciò che faceva il grassetto, il corsivo e sottolineato. Un'ultima caratteristica che volevo raccontarvi è una frecciolina a destra della scritta carattere nella sezione. Sicuramente a parole è difficile descriverlo, descrivere questa frecciolina e anche la posizione stessa. Allora, sto parlando della sezione carattere, cioè quella di cui abbiamo parlato fino adesso. Allora, proprio dove c'è scritto carattere, se voi andate leggermente a destra, vi è una frecciolina. Cliccando questa frecciolina, vi appare una finestra comprensiva di un menu. In questo menu, sostanzialmente, ci sono tutte le opzioni che abbiamo descritto fino adesso. Quindi la possibilità di barrare un testo, la possibilità di cambiargli il colore, la sottolineatura, lo stile di carattere, quindi corsetto, grassetto, corsivo, grassetto sottolineato, eccetera, eccetera, eccetera, la dimensione, il tipo di carattere, insomma tutte le cose che abbiamo visto fino ad oggi, fino ad ora. Perché vi faccio vedere questa finestra? Perché questa finestra la ritrovate in maniera del tutto identica nelle versioni precedenti del Word, quindi anche nelle versioni 2000 e 2003. Se voi andate nel menu formato alla voce carattere, vi troverete esattamente questa finestra. Quindi il motivo per cui vi faccio vedere questa finestra è l'invitarvi a prendere confidenza con le opzioni che ci sono in questa finestra. È vero che sono un pochino più difficili da raggiungere o quantomeno un pochino più articolate rispetto ai pulsanti, anche perché i pulsanti, si sa, la memoria visiva è una delle memorie più forti nell'uomo, quindi è molto più facile ricordare un pulsante che non la posizione di una scritta. Però se voi prendete confidenza con questa finestra, un domani, se doveste utilizzare una versione antecedente di Office, quindi una versione 2000 o 2003, andando nel menu formato carattere, ritroverete tutte le opzioni che vi ho descritto quest'oggi. Con questo, sostanzialmente, abbiamo finito la lezione di venerdì 13 gennaio 2012. Io, come vi avevo detto all'inizio del podcast, mi auguro di aver fatto cosa gradita nel ripetere la lezione appunto in questo modo. Senza dubbio la registrazione fatta in questa maniera è un pochino anomala, però ho cercato di riprendere con sostanzialmente la stessa sequenza, gli argomenti trattati durante la lezione e spero di essere riuscito a spiegarli con altrettanta chiarezza per mettere a disposizione appunto di tutti coloro che vorranno ascoltare la lezione. Non mi rimane che salutarvi, augurarvi un buon fine settimana e soprattutto un buon lavoro. Cercate di esercitarvi, cercate di scrivere il più possibile, in modo che possiate affrontare le problematiche del computer al più presto e pormi anche dei quesiti il più inerenti agli argomenti trattati di volta in volta. Un saluto a tutti da parte di Vittorio.